Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Io mi spavento molto facilmente. Ecco una lista di ciò che mi terrorizza: i bambini piccoli, i poliziotti, i posti alti, e che il mio prossimo film non sia bello quanto l'ultimo. Questa è una frase che disse il protagonista della puntata di oggi. Insomma, è uno che lavora nel mondo del cinema e che sa di essere terrorizzato da bambini e poliziotti. Eppure uno che ha terrorizzato noi più di una volta. Chi può essere? Proviamo a sentire un'altra delle sue celebri frasi. La suspense, al contrario del mistero, è dare informazioni al pubblico in modo da farlo preoccupare. E lui è il maestro della suspense, perché oggi io vi parlo di Alfred Hitchcock. Il piccolo Alfred Joseph nasce a Leyton Stone, che allora era un sobborgo di Londra, oggi è Londra, ci gioca anche il Leyton Orient, e nasce il 13 agosto 1899. È il terzogenito della famiglia, il padre William insieme alla madre gestisce due negozi di frutta e verdura lungo la High Road della sua cittadina. Sarà proprio il fratello maggiore, William Jr., che ha 9 anni più di lui, a prendere in mano le sorti dei negozi, mentre il fratello minore, Alfred Hitchcock, si dedicherà al mondo del cinema. In casa i tre figli crescono con una rigorosa educazione religiosa. Alfred viene chiamato da tutti agnellino senza macchia, perché da piccolo è buono, è bravo, è piuttosto introverso e calmo, ma quando ha 6 anni combina una marachella che suo padre punisce in modo piuttosto originale, come racconterà lui stesso a 80 anni davanti al pubblico della AFI Life Achievement Award. Quando non avevo più di 6 anni, ho fatto una cosa che mio padre considerava condannabile. Non ricordo quale fosse la violazione. All'età di 6 anni, difficilmente poteva riguardare una bambina. Comunque, mio padre mi mandò alla stazione di polizia della zona con una nota. L'ufficiale di turno la lesse e mi rinchiuse in una cella per 5 minuti e mi disse: questo è quel che facciamo ai bambini cattivi. Da quel momento in poi ho fatto di tutto per evitare l'arresto e la carcerazione. Per voi giovani il messaggio è: state fuori dalla prigione. Stay out of jail. Ma per quanto Alfred da piccolo sia un ragazzino solitario, il suo atteggiamento non lo salva dalle punizioni corporali, dalla vittoriana educazione rigida di quegli anni, di quei tempi. E lui frequenta un collegio gesuita dai 9 ai 14 anni, qui obbligato a studiare molto, anche se non è una cima, insomma, in questa atmosfera così severa probabilmente inizia a conoscere la sensazione della paura. È una sensazione che cresce e con la quale convive e che poi capitalizzerà nella vita. Ma quando ormai è all'apice del successo, lui, intervistato da Dick Cavett, userà l'arma della sua simpatia e ironia proprio per rispondere alla domanda che tutti si sono fatti almeno una volta pensando a lui: come ha conosciuto la paura? Credo che mia madre mi abbia spaventato quando avevo 3 mesi. Vedi, mi ha fatto boh e mi ha fatto venire il singhiozzo. E apparentemente era molto soddisfatta. Lo fanno tutte le madri. È così che la paura si forma in ognuno di noi. That's how fear starts in everyone. E qui stiamo anche rendendoci conto di quanto Hitchcock fosse simpatico e ironico. Intanto però siamo a scuola e lui non è certo il primo della classe. Lui galleggia, si interessa di geografia, di viaggi, di fotografia. Gli studi proseguono, si iscrive alla scuola di ingegneria e navigazione, che deve abbandonare quando ha 15 anni per la morte del padre. Siamo nel 1914, la prima guerra mondiale alle porte, e per motivi economici lui deve lasciare la scuola. E per Alfred Hitchcock inizia un periodo di sbandamento, perché lui sa già che ama il cinema, è affascinato anche già dal mondo del crimine e degli omicidi, quindi sa già anche quale cinema ama, colleziona saggi, ritaglia articoli di cronaca nera, visita spesso il Museo del Crimine di Scotland Yard, riesce a trovare lavoro come disegnatore presso la Henley Telegraph and Cable Company e quando viene riformato nel 17 decide di arruolarsi in un corpo di volontari del genio a Londra. Ma anche se sta redigendo preventivi tecnici per una compagnia che si occupa di cavi elettrici, quindi nulla di particolarmente artistico, lui non perde la sua vena creativa, fa disegni, caricature dei compagni, nel tempo libero entra nel cinema, guarda i film e soprattutto gli piacciono i film americani e scrive brevi racconti di paura. Il falco e il gabbiano. Il primo colpo d'ala di Alfred Hitchcock coincide col suo primo impiego nel ramo cinematografico. Siamo nel 1920. È lui che ha frequentato corsi di disegno, che ha sempre mantenuto una certa manualità con matite e penne, riesce finalmente a ottenere dalla casa produttrice Famous Players, quella che poi diventerà la Paramount, l'incarico dei disegni e delle didascalie dei film in produzione. Siamo negli anni d'oro del cinema muto. Lui è assunto come disegnatore di titoli in un nuovo studio londinese. Disegnerà i titoli per tutti i film prodotti nel corso dei successivi due anni. È qui che disegnerà anche la sua celebre autocaricatura, quella stilizzata con la pancia prominente. Da questo momento possiamo dire che ha inizio la vera carriera di Alfred Hitchcock, che finalmente può toccare da vicino il mondo del cinema, conoscerne i retroscena, i segreti, si avvicina al mondo della sceneggiatura e del montaggio, capisce cosa significhi fare la regia. E quando ha solo 23 anni il destino gli dà una mano, perché Hugh Croyce, il regista del cortometraggio muto Always Tell Your Wife, si ammala e Hitchcock si propone di terminare di girare la commedia al suo posto. Si mette immediatamente in luce per le sue buone qualità, per il genio creativo. Insomma, il 22 è l'anno del suo debutto, anche se il suo nome non compare nei titoli di coda. E con questa esperienza si fa notare, viene assunto dalla compagnia più tardi conosciuta come Gainsborough Pictures. È l'inizio di una grande carriera e Alfred è determinato e ambizioso, si propone anche come sceneggiatore ogni volta che ce n'è bisogno, lavora nell'ombra per molti film occupandosi di una grande quantità di mansioni, sceneggiatura, disegni, titoli, scenografie, fino ad arrivare al montaggio, all'aiuto regista. E insomma, si sta facendo le ossa imparando tutto quello che c'è da imparare nel cinema. La prima pellicola con cui deve cimentarsi è la commedia muta Woman to Woman, diretta da Graham Katz, che oltre a scrivere la sceneggiatura lo impegna anche per la scenografia. Finalmente nel 1925 la compagnia gli affida la regia del film muto Il giardino del piacere, una storia melodrammatica, come dirà lui stesso. È una ballerina che va a trovare il marito che lavora nelle colonie inglesi in Africa, lo trova ubriaco tra le braccia di un indigeno, lei torna in patria e il marito impazzisce sperando di ottenere il suo perdono. Insomma, un film tipico di quegli anni. Non solo questo è il suo primo film filmato da regista, quindi in qualche modo lo ricorderà per sempre. Qui lavora anche un'altra persona importante, è una segretaria di edizione e assistente regista, si chiama Alma Reville, diventerà sua moglie un anno dopo, il 2 dicembre del 26, e quello sarà uno dei matrimoni più longevi della storia dello spettacolo. Appena potranno, i due torneranno a fare il Natale a St. Moritz, dove si è svolto il loro viaggio di nozze. Alma, che aveva lavorato come montatrice in Woman to Woman perché voluta dallo stesso Alfred, comparirà anche in un piccolo ruolo in uno dei film successivi di Alfred nel 27, Il pensionante. Il film A Story of the London Fog del 1927 viene considerato il primo film propriamente Hitchcockiano, è il primo vero successo commerciale di critica per Hitchcock, e al suo fianco c'è già Alma che ha un ruolo fisso nella sua vita personale ma anche professionale. Qui cominciano a emergere i temi della suspense, dell'innocente accusato ingiustamente, ma anche le influenze dell'espressionismo tedesco nell'utilizzo delle luci, delle ombre, creare la giusta atmosfera, l'uso degli specchi, dei riflessi, la presenza delle scale, oggetti inquietanti, sottofondi musicali da horror. Insomma, sta prendendo quota una vera e propria cifra stilistica precisa di Hitchcock, che farà veramente scuola per tutti. L'inquadratura al telefono un attimo prima che suoni, di modo che tu capisca che sta per suonare. Insomma, una serie di accorgimenti che verranno saccheggiati da centinaia di registi dopo di lui. Hitchcock dichiarerà: The Lodger è il primo film nel quale ho messo in pratica tutto quello che avevo appreso, e in realtà è il primo film nel quale lui applica il suo stile. Intanto nel 1928 Alma Hitchcock si deve fermare perché dà alla luce una bimba, Patricia, che vuole diventare un'attrice. Con il passare degli anni il nome della moglie Alma, intanto, che prima è accreditata nei titoli di coda come montatrice, sceneggiatrice, assistente alla regia, compare sempre più raramente tra i collaboratori, però il suo parere resta per Hitchcock un punto di riferimento imprescindibile. Lo racconta anche l'attrice Helen Mirren, che in un film sulla vita di Hitchcock del 2012 mette i panni della moglie Alma. There was this woman working alongside of him. C'era questa donna che lavorava accanto a lui in ogni fase, dalla sceneggiatura ai casting, non durante le riprese ma durante il processo di editing. E come tutti sappiamo, per Hitchcock l'editing era tutto. Delle riprese non poteva importargli di meno, perché se l'era già editate nella sua testa. Era solo un problema di raccontare la storia attraverso le immagini. Alma era molto importante in questi step essenziali nella creazione di un film, perciò mi piacerebbe che da questo momento in avanti la storia lo riconoscesse. Il loro è un rapporto molto intenso, collaborano, lavorano a stretto contatto, sarà sempre lei, Alma, a dargli consigli e idee utili alla realizzazione dei suoi film, tanto che la loro unica figlia, Pat, scriverà un libro di memorie per raccontare la figura di sua madre, grande donna alle spalle di un grande regista. Sentiamo uno stralcio del film interpretato da Helen Mirren. Io sono straordinariamente sotto pressione per questo film. È il minimo che puoi fare darmi il tuo totale supporto. Abbiamo ipotecato la casa. Io sono tua moglie. Festeggio con te quando le critiche sono buone, piango per te quando sono cattive e sopporto tutte quelle persone che mi guardano come se fossi invisibile. Perché tutto ciò che vedono è il grande, glorioso genio Alfred Hitchcock. Il falco e il gabbiano. Siamo arrivati agli anni 30. Hitchcock è ormai considerato un grande regista. Il pubblico lo conosce, lo ama. Lui è un tecnico meticoloso, ha uno stile personale che influenzerà il cinema che dopo di lui arriverà. Ha solo un grande vizio lui: mangia tanto e anche molto bene. Ama il colore verde, gli piace fare scherzi. Ma la svolta della sua vita privata e professionale coincide col suo trasferimento a Hollywood nel 1939. E in Europa soffiano venti di guerra e lui va a inserirsi perfettamente nel sistema hollywoodiano, lo sfrutta al suo amato concetto di suspense, aggiunge un occhio attento ai gusti del pubblico, diventa un attimo più fruibile, quasi più commerciale. Poi lavora per David Selznick, il produttore di Via col vento, quello che abbiamo conosciuto quando abbiamo parlato di Vivian Leigh. Insomma, finisce la sua fase inglese, quella che va dal 25 al 39, quella nella quale aveva diretto 23 film, di cui 9 muti. Inizia la fase americana, quella durante la quale dirigerà una trentina di film, i suoi più conosciuti. Non possiamo citarli tutti, ma almeno ricordiamoci Rebecca, la prima moglie del 40, che vince 2 Oscar, anche se non quello per la regia, oppure alcuni film di impegno patriottico, alcuni come Notorious, La L'amante perduta del 46, dove si consolida la sua collaborazione con la grande Ingrid Bergman, ma Gli uccelli, ma insomma, potremmo andare avanti a lungo a parlare dei grandi film di Hitchcock, ma sentiamo un breve stralcio di Rebecca, la prima moglie, e un piccolo passo dell'interpretazione di Judith Anderson. A volte quando cammino nel corridoio mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi? No, no, non lo so. A volte mi stupisco che ella non torni a menderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Gli anni 50 sono un decennio d'oro per Hollywood, ma soprattutto per Hitchcock. Nel 50 lui passa alla Warner Bros. E gira L'altro uomo, che diventa un grande successo, e poi Io confesso, e poi Il delitto perfetto. Siamo nel 54, il suo primo film con Grace Kelly racconta di come un uomo tenti di uccidere la moglie per ereditarne la fortuna. Hello? Hello? E Grace Kelly è talmente bella e perfetta che Hitchcock la vuole sul set di un altro film, questa volta della Paramount, è il celeberrimo La finestra sul cortile, quello in cui un fotoreporter interpretato da James Stewart si trova costretto all'immobilità nel suo appartamento con una gamba ingessata e così inizia a spiare le vite private del vicinato. Perché un uomo dovrebbe uscire da casa sua tre volte in una notte sotto il temporale con la valigia in mano e rientrare poco dopo? Jeff, io voglio essere sincera con te. Tu cominci a spaventarmi. È il 54, qui si dimostra veramente tutto il genio del regista e il suo saper coltivare la suspense. Questo film verrà considerato uno dei capolavori della storia del cinema. Lui stesso, Hitchcock, racconterà che si tratta di una sola immensa scenografia e tutto il film è visto attraverso gli occhi dello stesso personaggio. E poi c'è un altro colpo d'ala che fa salire in vetta il nostro protagonista Alfred Hitchcock. Questo colpo d'ala è rappresentato dalla TV, perché nel 1955 lui inizia a produrre e a girare alcuni episodi della famosissima serie Alfred Hitchcock Presenta. È una serie di telefilm su crimini e delitti presentati da lui con la sua grande sagacia, con la sua ironia. C'è un cappello introduttivo che fa Hitchcock e poi la chiosa finale, e sono dei telefilm meravigliosi, se vi capita guardateveli. Signore e signori, buonasera e un caloroso benvenuto a questa nuova serie di Alfred Hitchcock Presenta. È sempre stata nostra abitudine offrirvi omicidi alla buona, fatti in casa, davanti al caminetto. Vogliamo onorare il modesto omicidio dell'uomo qualunque, o della donna qualunque, come è giusto. E tutte le volte che si parlerà di un qualche omicidio, finiremo per scoprire che a commetterlo è stata una persona comune, come il vicino della porta accanto. E malgrado la crisi degli affitti, credo che parecchi di voi cominceranno a pensare di cambiare alloggio. E questa voce particolare era di Carlo Romano, un grande doppiatore di quegli anni. I critici cinematografici saranno concordi nel dire che la sua entrata nel mondo della TV è un altro elemento determinante nella carriera di Hitchcock. Intanto perché con i guadagni ottenuti diventa azionista della MCA, riuscendo così a controllare la casa di produzione Universal. E poi perché quella ricchezza gli permette di mettere in pratica ogni sua bizzarra idea, realizzando progetti ambiziosi, riprese originali che lo portano a capolavori senza pari. Non c'è più nulla che frena il genio di Alfred Hitchcock. Dal 56 dirige una serie di film splendidi, tra cui Il ladro, La donna che visse due volte. Abbiamo parlato di questo film anche nella puntata che abbiamo dedicato a Kim Novak, Intrigo internazionale, poi Gli uccelli e poi l'intramontabile Psycho. la scena della doccia, quella che dura solo 45 secondi, però entra nell'immaginario collettivo di intere generazioni, una delle scene più citate, più copiate della storia del cinema. Siamo nel 60, il film è girato in bianco e nero, quello che sembra sangue in realtà è cioccolato fuso, e per l'immagine finale sarà poi la moglie di Alfred, Alma, a consigliare al regista di non mostrare il volto di Janet Leif già morta sul bordo della vasca, perché magari si sarebbe vista respirare. Quello che è certo è che Psycho è stato il più grande successo commerciale di Hitchcock. Di questo film lui, davanti a Truffaut, disse così: in Psycho del soggetto mi importa poco, dei personaggi anche. Quello che mi importa è che il montaggio dei pezzi del film, la fotografia, la colonna sonora e tutto ciò che è puramente tecnico possano far urlare il pubblico. Credo sia una grande soddisfazione per noi utilizzare l'arte cinematografica per creare un'emozione di massa. E con Psycho ci siamo riusciti. Eh beh, sì, senza bisogno di squartare, ammazzare, senza bisogno di trovate tecniche esagerate, senza bisogno di mostri che arrivano dal cielo, Hitchcock fa la storia del cinema. Nel 66 lui viene a Milano, un giornalista della Rai lo intervista e gli chiede qualcosa su una delle sue tante stranezze. Tra queste c'è quella di comparire sempre come un cameo in tutti i suoi film, pochi secondi sempre all'inizio. Perché? It started many years ago. Questa storia è cominciata nel 26, quando non avevamo molti attori, e così noi facevamo delle piccole parti, ma naturalmente ho voluto fare soltanto delle piccole parti. Ed adesso io entro nei film soltanto all'inizio, perché ormai tanto il pubblico sa che ci devo entrare, quindi è meglio che mi veda subito, sennò mi aspetta e perde poi interesse al resto della storia. Signor Hitchcock, il suo eroe nei film è sempre un eroe della classe media, medium class. Perché? I always have. Nei miei film io ho sempre messo come eroe il piccolo borghese, l'uomo medio, così il grande pubblico si può identificare nell'eroe, nel protagonista, e può pensare che la paura che sente il protagonista, l'emozione del protagonista, sono le sue emozioni. Ma anche il re del brivido invecchia, il suo cuore comincia a fare i capricci. Il suo ultimo film è Complotto di famiglia del 76. Due peacemaker non gli impediscono di presenziare alla festa organizzata in suo onore al Beverly Hilton il 7 marzo del 79 dall'American Film Institute. Davanti a tutti i grandi attori di Hollywood lui ritira il premio alla carriera a 80 anni, sua moglie tra gli spettatori. È il momento dei ringraziamenti finali, dei ringraziamenti di una carriera e di una vita, e lui riesce a fare il miglior riassunto del loro matrimonio. And a variety of other criminals. E ringrazio una varietà di altri criminali che hanno contribuito alla mia vita. Vi prego di permettermi di citare per nome solo 4 persone che mi hanno dato il massimo affetto, apprezzamento, incoraggiamento e costante collaborazione. Il primo dei 4 è un editor di film. Il secondo è uno sceneggiatore. Il terzo è la madre di mia figlia Pat. E il quarto è un cuoco che ha sempre compiuto miracoli in cucina. E i loro nomi sono Alma Revi. And their name are Alma Revi. Beh, qua ci commuoviamo, insomma, ogni donna vorrebbe sentirsi fare una dedica del genere, magari da un grande come Alfred Hitchcock. L'anno dopo, nell'80, lui riceve dalla regina Elisabetta il titolo di baronetto, poi il 29 aprile conclude la sua parabola terrena. Dopo voli pindarici nel mondo del thriller, il suo corpo maestoso viene cremato, le sue ceneri vengono sparse nell'Oceano Pacifico. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, e in questo caso i colpi d'ala sono stati tantissimi, colpi d'ala che hanno influenzato generazioni e generazioni di registi e che hanno spaventato e messo in ansia milioni di persone. È la storia bellissima di Alfred Hitchcock, e ognuno di noi però può cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che lo porti a volare in alto, come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui vari social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.